de rien. Non, je ne regrette rien. Non, rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ciao a tutte. Ipocrisia. Ieri è stato l'anniversario della Liberazione. Ci sono state commemorazioni e cerimonie in tutta Italia, fatte da tutte le componenti partitiche possibili e da tutte le associazioni collaterali e satelliti. A cosa sono servite queste commemorazioni? Non certo per condannare i CIE, luoghi di sopraffazione, di umiliazione, di violenza, anche di genere. Non certo per difendere lo Stato sociale. Lo smantellamento è stato iniziato dai governi Amato e D'Alema e proseguito con Prodi e Berlusconi. Non certo per difendere la scuola pubblica. L'iniziatore dell'affossamento della scuola pubblica è stato il ministro PD Luigi Berlinguer e poi, senza soluzione di continuità, la Moratti, Fioroni e la Gelmini. Non certo per difendere la Costituzione nata dalla Resistenza o per ripudiare la guerra, come proprio la Costituzione dice. L'aggressione alla Jugoslavia è stata fatta dal governo D'Alema e le guerre neocoloniali sono state votate da maggioranza e opposizione. E l'ultima, l'aggressione alla Libia, trova nel PD il maggiore sponsor. Allora, a che cosa sono servite tutte queste commemorazioni? Forse per difendere in questo paese la libertà di vita, di espressione e i diritti? Forse per abolire il pacchetto sicurezza e tutte le leggi liberticide? E invece no, perché per il centrodestra e il centrosinistra la soluzione è sempre penale. Il cittadino e la cittadina viene sempre più perseguitato e perseguitata penalmente e anche amministrativamente. La libertà di manifestare le proprie idee è pesantemente limitata. I comportamenti personali perseguiti, aumentano le morti sospette e i suicidi in carcere. A essere fermate e arrestate si rischia di morire. Multe per chi chiede l'elemosina, deportazione in luoghi lontani per i senza case di Rom, intolleranza verso i poveri e le povere, i diversi e le diverse. Con la scusa del decoro pubblico si dà la caccia alle prostitute e alle trans. Con la scusa della lotta alla delinquenza siamo tutte e tutti controllate e controllati. Allora, che cos'è l'antifascismo? Centrodestra e centrosinistra sono accomunati nella condanna di un fascismo oleografico e allo stesso tempo attuano una politica autoritaria nella legislazione e nella pratica. Coltivano e ripetono come un mantra la condanna dei cosiddetti opposti estremismi, strada maestra che ha fatto rientrare la cultura fascista e ha consegnato molti giovani delle periferie, disgustati da tanta ipocrisia, alla destra. È stata smantellata con la legge dell'affido condiviso la prassi che vedeva i figli minorenni affidati alla madre e se ne sta preparando un ulteriore peggioramento legislativo e si sta aprendo la strada alla PAS. Si boicotta l'utilizzo della RU486 e si vuole subordinarlo al ricovero ospedaliero. I medici pubblici diventano tutti cattolici integralisti e fanno obiezione di coscienza. Ma allora, a cosa sono servite queste commemorazioni? Forse perché la gente abbia finalmente diritto ad una vita dignitosa? Ma questa è una società in cui ci sono dei genitori che non hanno i soldi per fare il funerale al loro bambino morto. Una società che mette a pane d'acqua e lascia piedi i bambini cui i genitori non hanno pagato la retta della mensa scolastica pubblica o del pulmino, che costringe casalinghe alla fame a rubare nei supermercati, in cui migliaia di famiglie non arrivano alla fine del mese e sono sotto la soglia della povertà. Aumentano a dismisura i suicidi di gente disperata, che non vede prospettive. Suicidi che non sono, come vorrebbero farci credere, atti di follia personale, ma frutto dell'insostenibilità di questa vita. Questa è una società reazionaria, con forti punte clerico-fasciste, basata sull'ingiustizia sociale e le commemorazioni sono un rituale che serve ai politici di centrodestra e di centrosinistra che hanno partecipato insieme alle iniziative per lavarsi la faccia. A proposito di cerimonie, Quando fu fatta quella per l'eccidio delle Fosse Ardeatine all'Ara Coeli a Roma, la vedova di un martire riconobbe nel picchetto d'onore un poliziotto che l'aveva maltrattata e cacciata via quando era andata a chiedere notizie del marito al carcere di Regina Coeli. E allora, niente parate autoassolutorie, niente complicità con i responsabili della vita che viviamo, ma iniziative autonome e indipendenti. Per il 25 aprile vale quello che diciamo per l'8 marzo, lottare 365 giorni all'anno. Ciao. Non regretto rien.